E benvenuti a tutti, cari amici di Runtime, in questa nuova puntata di Everything, la trasmissione che pensa tutto. Pensa tutto? Non lo so. Hai pensato a tutto te? A me non, onestamente, guarda, di questa puntata qui non so neanche di che cosa parliamo. E sono abbastanza convinto. Perché non lo so neanch'io. Sono abbastanza convinto, c'è una cosa dentro di me che mi dice che secondo me non ci ascolta nessuno stasera. Però. Vabbè, intanto ci sta Puccio che ci fa sapere che il link funziona, quindi spero che lui resti con noi. Davide Gatti che parla con te dei cazzi tuoi, scusate la parolaccia, però esatto. È concessa. Io che continuo a iscrivermi su Telegram ai partiti comunisti. Sì, perché ha scoperto che vorrei andare in America con la mia amica e quindi sto facendo di tutto. Vabbè, ma era, penso, oramai il danno l'ha già fatto prima. Perché sappiate che il prossimo anno farò 40 anni e quindi è ora, viaggio... è ora che basta, insomma. Vabbè, facciamo un riassunto di quello di cui parleremo in questa puntata. Allora, di che cosa parleremo? Sicuramente parleremo un breve cenno a quello che sta succedendo in questi giorni nel governo, l'interrogazione parlamentare in Senato e il calendario della crisi, che è praticamente ormai crisi. Anche un po' cremesi. E il pomeriggio che abbiamo passato veramente molto molto molto molto molto interessante, soprattutto abbiamo passato in compagnia di Enrico Mentana, a meno noi, e nella tristezza più assoluta ci siamo comunque. Hai spento il condizionatore, sappilo. Ma l'ha spento pure prima. Eh no, l'hai acceso. Perché mi sta crescendo del muschio sotto le ascelle. E la cosa bella è che comunque c'è sempre l'unica certezza nella nostra vita di italiani in perenne crisi e con governi di merda, scusate l'altra parolaccia, è che, sì. Che c'è Mentana, una Maradona di Mentana, è un Mentana fantastico che biastima contro chiunque, ovvero contro... Anche immotivatamente. Sì, contro la pubblicità, contro i giornalisti. Ho visto che ce l'aveva col suo giornalista che doveva andare in ferie. E che non gli stava bene che doveva andare in ferie proprio oggi. Ma se quello aveva prenotato le ferie, che cazzo gliene frega dalla crisi del governo? È veramente lui, cioè Mentana è Mentana, quindi meno male che in tutta questa tristezza c'è lui che ci aiuta. E poi di E poi parleremo di Richard Gere e di tutto il Bibbiano, non parliamo di Bibbiano, il PD. Parlateci di Bibbiano. Di Bibbiano in realtà si potrebbe parlare. Ma è una cosa che io, mo, al di là del prima approfondiamo e facciamo neanche un ospite, se ci riusciamo. Sì, sì, sì, mi riservo di parlare di Bibbiano in modo più approfondito e non parlateci di Bibbiano o sia del partito di Bibbiano e allora addio. Come oggi una parlamentare, una senatrice ha detto. Sì, no. sì, ma facciamo il partito di Bibbiano e il partito comunque, di... Veramente, cioè, oramai... vabbè. Va bene, allora facciamo una cosa, iniziamo un po' di musica, così tanto per, e poi partiamo col primo tuo argomento, che così tu ti sfoghi e dopo finalmente possiamo dormire in pace, bene? Ok, va bene. Vuoi presentare il primo brano? Il primo brano, allora, il primo brano viene da un film super mega pazzesco, è un Tarantino doc che ci ha fatto veramente... saltare sulla poltrona, perché veramente applausi a profusione, quindi viene dal film Django Unchained e la canzone è Who Did That To You di John Legend. He'll keep on running, but I'm closing in. I heard Allora, prima di tutto voglio dire una cosa, è che questo film è un film clamoroso, ma la cosa bella è che un filmone, Quentin Tarantino che cosa fa? Lui applica praticamente delle situazioni in un ambiente, cioè in un'epoca in cui sarebbero anacronistiche, cioè quando noi vediamo nei film spruzzi di sangue ovunque. Esatto, quando noi vediamo nei film che la sparatoria è quello che spruzza di sangue, è perché oggi i proiettili, alcuni proiettili, hanno praticamente una carica esplosiva dentro e quindi esplodono dentro il corpo che colpiscono, no? E qui c'è sto spruzzo di sangue, oppure sono ad alta penetrazione. Nel vecchio West non credo che esistessero, eppure è bello vedere questa gente che si spara con spruzzi di sangue a schifo, a gogo. Però poi il film era comunque bello. E il film è veramente bello, veramente. Gli ultimi tre film di Tarantino mi sono veramente piaciuti tutti. Sì, sì, sì. Vabbè, ma pure Kill Bill, dai, c'è. Sì, sì, c'è, vabbè. C'è. Però io non è, insomma, è stato un iper estimatore, no, di Tarantino. Quindi questo lo possiamo, insomma, tranquillamente dire. Nel frattempo io volevo dire che all'Odi è stato centrato il 6 al Super Enalotto. Quindi se qualche amico nostro milanese, dato che noi li supportiamo e ne sopportiamo tanti, quindi se uno di voi ha vinto il Superenalotto si ricordi di Runtime. Un camper, soprattutto mi chieda l'Iban, che chiedo assolutamente il mio, che poi giro tutto a Runtime. Ma non ci pensate a queste cose dei 200 milioni, cose, tutte, sono cose che... Manco, perché sennò poi uno si attacca lì a cercare di giocare. C'ha ragione, ma pure mette musica fuori contesto come il combattimento della sposa Renishi con i Santa Esmeralda, sempre riferita a Tarantino. Sì, stiamo parlando dei Kill Bill, suppongo. Vabbè, ma il Malapegna, che è successo oggi? Allora, oggi io, sai, l'altro giorno stavo a vedere su YouTube, c'era uno un po' più giovane di me che diceva: sai, noi quando abbiamo fatto la scuola siamo usciti dalle scuole medie e più o meno eravamo preparati. E questo era più giovane. Ma anche adesso saranno preparati, perché il governo Movimento 5 Stelle Lega ha istituito l'ora di educazione civica a scuola. Quindi vedrai che saranno... Poi non so che cosa gli raccontano, però c'è. Però c'è stato un periodo in cui la nostra scuola, pensa Michela, tu questo non lo sai perché sei giovane, era riconosciuta a livello mondiale proprio per qualità di preparazione. Siccome negli ultimi 25 anni la scuola l'hanno praticamente smembrata, e oggi praticamente la scuola è l'università, non si insegna a scuola, si devono dare voti a casaccio affinché, voglio dire, sia gli studenti che gli insegnanti abbiano, insomma, dei plus, insomma, dei riconoscimenti, altrimenti dice no, vabbè, no, non è possibile che questa classe ha praticamente troppi 6 invece che troppi 7. E quindi praticamente che cosa è successo? È successo che la gente è diventata stupida. E questa cosa del diventare stupida praticamente è stata presa subito a balzo dai politici. E quindi adesso ti lancio a te, praticamente, che vanno in Parlamento a dire cose stupide. Cioè, nel senso, tanto che cazzo gliene frega. Vabbè, ma chi è che conosce i tempi tecnici della Repubblica? Nello specifico parliamo di Salvini, che oggi in Senato è andato... Ma non solo di Salvini, ma soprattutto di Salvini, che oggi in Senato è andato a fare il suo solito show, quindi si è spostato dal Papa de Beach soltanto perché c'era un altro, diciamo così, un'altra telecamera importante. Beach dai quale sta cominciando a prendere schiaffi, tra l'altro. Beach dai quale sta prendendo gli schiaffi, e io Sud vi imploro, vi scongiuro, continuate così, perché a parte la napoletana che vota Meloni e Salvini, che vabbè, l'abbiamo nominata più volte, anche se non abbiamo mai fatto più nomi, io sono sicura che c'è gente forte e intelligente che si ricorderà quello che ha fatto Salvini per il Sud, ovvero niente. Ma questo governo non ha fatto niente a prescindere. Cioè, ok, a parte, no, ma a prima... A parte i decreti di sicurezza che fanno comodo a Salvini perché è tutta demagogia, ma fine fondamentale. Io ti parlo di prima. Comunque, nel pomeriggio, il tanto atteso Mentana con la sua maratona ha detto: vai, c'è un'interrogazione al Senato, quindi andiamo... Perché a lui gli piace fare le maratone. Sì. Poi è rimasto pure un pronti po' deluso. Con la perché... maratona? No, non del tutto. Diciamo che noi siamo arrivati un po' più tardi, però lui era già lì in pole position con la maratona. E tra i vari interventi ovviamente c'è stato quello di Salvini, che ha ritenuto opportuno parlare e soprattutto riferire in Senato, non tra i parlamentari ma fra i senatori, quindi già sta cosa, vabbè. Comunque, parlamentari pure i senatori sono parlamentari, tra i deputati o senatori? Tra i senatori, non tra i deputati stava. Ma può essere che lui è senatore, però Boh, sinceramente. Vabbè, se andava in Senato, sarà senatore. Poi comunque, devi sempre considerare che lui è il vice premier, quindi... Comunque c'è lui... Tornando cazzo gli pane. Con la nonchalance, sì, ma quello assolutamente. Con la nonchalance che lo contraddistingue, con la strafottenza degna dei nostri... avi, i nostri avi. Opinione impopolare, molto del disastro della scuola è colpa degli insegnanti che spesso... stanno lì solo per scaldare la cattedra. Il resto della colpa risale alla riforma Gentile. Alla riforma Gentile, sì, sì, assolutamente. Mi sembra vabbè, che ma comunque siano... non è questo il tema. Quella è solo un'introduzione, diciamo, di questa cosa. Altri... Vabbè, comunque Salvini è andato lì. È andato lì e ha detto in soldoni proprio perché noi dobbiamo fare demagogia spicciola. No, dicevo, è andato lì in soldoni e ha detto ok. Votiamo sta mozione di sfiducia, chiudiamo praticamente i battenti del governo, prima votiamo che ha fatto tutto lui, la mozione di sfiducia verso se stesso, poi. Votiamo il taglio dei parlamentari e poi andiamo alle urne così, spiazzando un po'. Ma non è che c'è una costituzione di mezzo, c'è un iter parlamentare, un iter giuridico. Ma chi gli frega a lui? A lui fa solo rumore. Tant'è che il momento stesso in cui ha finito di parlare è uscito e è andato davanti ai giornalisti. Sì. Però pure sta cosa che gli viene concessa, però sta cosa, no? Capito? Tutti... Non ha votato, lui non ha votato, è uscito fuori. E non ha neanche ascoltato le risposte. Un voto. Non hanno anche ascoltato le controrisposte, le risposte comunque dei vari gruppi misti, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, PD non mi sembra che abbia parlato, o comunque me lo sono perso. E PD? E mal PD, e Bibbiano. Però la mozione è stata, cioè comunque il voto è stato sfavorevole, quindi per il momento si attenderà il 20 agosto che Conte riferisca sulla crisi di governo. Si vedrà quello che succederà, è abbastanza complicata la situazione. Ma a un certo punto è intervenuta la Santanchè. È intervenuta la Santanchè? Io non l'ho vista la Santanchè, no. Però me la so persa. Però era vestita come Moira Orfei, questo sì, perché non è che... insomma, vabbè, comunque il partito di Bibbiano... Comunque siamo una democrazia parlamentare, come dice Arianna Ciccone, nota organizzatrice del Festival del Giornalismo, e quindi il Parlamento si è espresso. Quindi... Beh, allora sì, questi sono andati lì con due mozioni della Lega, quello di... La mozione di sfiducia al Presidente del Governo è stata respinta. Tutte quante, sì, hanno perso, hanno preso... Oggi Salvini ha preso i schiaffi, poi va in giro per, e prende i schiaffi. La cosa più infame, tra l'altro. Boh, allora, chiudiamo sto discorso del governo. Poi perché lo sai la cosa. Questo ha fatto come gli pareva a lui, no? La cosa fantastica. E gli hanno permesso di fare quello che gli pareva a lui. Sì, perché questa è la cosa bella, no? Da fatto e disfatto sto governo da inizio alla fine. La cosa brutta è quando lui va in piazza, perché oramai lui fa solo quello, cioè non è la politica, la fase politica di Salvini significa andare in piazza. E arrivano i contestatori, giustamente la polizia carica, perché se no non sia mai, e lui che applaude la polizia che carica la gente. Cioè è veramente la cosa più infame e bastarda che possa esistere. Io spero che un giorno il figlio di Salvini passi sotto 50 manganelli e subisca i danni che hanno subito tutte le persone che stanno lì. È così. Mi dispiace, però è così. E domani vediamo che la figlia vabbè, ma regà, cioè, tu non puoi applaudire delle persone che stanno picchiando delle altre persone, è una cosa veramente fuori dalla grazia di Dio. Sì, veramente abbiamo visto, magari ne parliamo dopo, perché comunque il movimento degli artisti, tra virgolette, si sta in qualche modo svegliando. Bravo, bravi artisti, bravi. Questa cosa mi fa piacere. Sono rimasti un po' confusi nel periodo del Movimento 5 Stelle. Diciamo che molti di loro pagano le conseguenze, perché quando comunque noi li guardavamo dicendo ma che cazzo stanno a fare questi, metti una Fiorella Mannoia o poverina. Mi viene in mente lei adesso, ma probabilmente ce ne saranno anche altri che hanno utilizzato la loro popolarità per appoggiare il Movimento 5 Stelle, quindi per appoggiarlo pubblicamente, e poi adesso si sono pentiti pubblicamente. Lì non puoi fare niente, cioè Comunque, l'elettore medio del Movimento 5 Stelle adesso si dovrebbe solo vergognare. Ma sì, dato sì, che fatti... ce l'ha portato lui Salvini. Ma poi si sono fatti inculare in tutto e per tutto, e qui pagano proprio il fatto che loro non, la politica non sanno proprio di che cosa è fatta. E per loro una volta era un vanto questo, ma purtroppo non è un vanto. Allora, comunque, per rispondere anche a quello che dice Carlo, e poi andiamo al brano, così almeno parliamo anche di altre cose che veramente a me parlate di Salvini. Cioè, non lo so, cioè, bella ciao, ricordo dei Salvini che è quella la cosa più importante. Però qui Carmine ci fa una domanda, perché sul runtime... Abbiamo già detto, Carmine, non tu hai distratto, che noi parleremo di Bibbiano, perché ne parleremo. Perché bisogna sapere di cosa non politicamente, quindi nel senso che non è che lo faremo per dare contro al PD o altro, anche se il PD non c'ha bisogno di nessuno che gli dà contro, perché tanto si dà contro da solo. Si mette da solo i bastoni tra le ruote. Ma dice, sai che c'è? Io mi do contro. Abbiamo intenzione di parlare di Bibbiano perché vorremmo raccogliere più informazioni possibili e vorremmo anche parlare con degli esperti che magari conoscono il settore meglio di noi. Il bibbianismo, che è importante, insomma. Sì. A questo punto io lancerei un brano allegro, è molto, molto. Insomma, proprio è molto allegro. Ma fatemi sapere come si sente questo Rode Procaster Microphone Underground. Si sente, se vuol dire una parolaccia, si sente l'anima. Si sente l'anima. Va bene, quindi qual è il prossimo brano? C'è Joplin. Bla bla bla. Cioè Janis Joplin con Me e Bobby McGee. E chi sarebbe? Il suo, penso che sia il suo amante. È una canzone molto romantica, molto allegra, molto carina. Allora adesso molto mentre bella. Che ci ascoltiamo la musica ci teniamo per mano. Va bene. Va bene. Va bene. Però fa caldo. Non troppo per mano. L'ascoltiamo in camper una volta, mentre bello, andiamo in giro. Bello, bello, quello sì mi piace. Train on us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. And I bobbed under Bobby McGee. È bellissima questa canzone, a tratti una palla incredibile, a tratti piena di energia. Vai, ma non c'è proprio più mai rispetto di te. Ho cercato di contenermi. Certo, c'hai avuto tutto, c'hai avuto tre minuti di tempo. Ma la prossima mi faccio il caffè. Brava, okay. Giuro. C'hai avuto tre minuti di tempo, quando che sbadigli, quando saprò. Perché stavo sentendo la canzone e mi sono rilassato un attimo. Mortacci. Che poi questa canzone, se tu ci pensi, può essere degna tipo, che ne so, di un film tipo... Pretty Woman che adesso c'avevo in mente, ma non mi veniva. No, non è degna di Pretty Woman. Beh sì, dai, perché comunque anche quello è un film romantico fatto da ma Janis Joplin con Pretty Woman, ma che c'entra? Ma sì, perché pure lei sta un po' puttana magari, no? Ma chi? Janis Joplin? Vabbè, probabilmente lei se le trombava tutti e tutte, però faceva appunto, bene. Era puttana, insomma. Lei era la regina di Woodstock, The Queen. Però cioè, queste musiche così belle e romantiche ci stanno nei film, no? Dove ci sono questi attori bellocci, tutti precisi, e tu dici, vabbè, ma mazza quanto sei bello. Però poi alla fine tu, attore bellissimo, che vivi nella tua... Roberto Marin ci saluta e noi salutiamo Roberto. Salve, ciao Marin. Roberto, che vivi nella tua villa bellissima, no? Sta lì, insomma, e ignori tutto quello che succede nel mondo, tipo, che so, Richard Gere faceva sti film, tutte le donne lo bramavano, lo amavano, però poi alla fine c'era, cioè, Richard Gere del mondo, che cazzo ne frega. A Richard Gere negli anni è sempre fregato un bel po' nel mondo, grazie al cielo, perché comunque è anche grazie a lui che diciamo che l'Italia è il problema principale dell'Italia, che è quello dei porti chiusi, è risalito a diciamo così, diciamo non è il problema principale, è uno dei problemi con il quale stiamo facendo una bella figura del merda rispetto a tutto il mondo, insomma. È un problema umanitario di non indifferente portata. Per cui questi immigrati illegali, cioè immigrati illegali, queste persone che scappano da qualsiasi sia la loro situazione disagiata nei paesi che sono Siria, eccetera, eccetera, che comunque provengono dalle navi o dalle barche della Libia, vengono tenuti in ostaggio per giorni e giorni nelle acque del Mediterraneo, in attesa che qualcuno li accolga in un porto sicuro. Una volta. Beh, però tu devi anche considerare che tu, per esempio, per fare questa cosa, sì, quindi per stare giorni e giorni nelle acque del Mediterraneo, paghi fior fior dei biglietti per stare in crociera, no? Invece questi lo fanno gratis. Sì, vengono salvati dalle navi delle ONG. Chi li paga questi, scusa? Li paga l'ONG. L'ONG tedesca, in questo caso la Open Arms, che poi non è tedesca, non mi sembra, mi sembra che sia spagnola la Open Arms, che ormai da almeno una settimana e anche di ma più, anche forse di più, sì, salva vite nel Mediterraneo e raccoglie però non si rende conto che questi continuano a raccattare gente, poi a un certo punto lo spazio finisce. Ho capito, ma che fai? Li lasci in mare? No, no, non li devi lasciare in mare, devi portare la guardia costiera, li lascia in mare e nessuno se ne occupa. Malta non li vuole, la Spagna non si mette d'accordo, l'Italia, che è il porto più vicino, non li vuole, perché comunque Salvini ha fatto questo bellissimo decreto sicurezza e quindi no, tra l'altro ha attuato. Salvini, mentendo anche, che lui non dice che c'è un accordo fra Italia e Germania, sì, Europa, che comunque cioè loro il transito a noi ce lo pagano se poi dopo comunque li, sì, le distribuiscono, no? Però perché questa è una cosa, noi prendiamo comunque dalla comunità europea storicamente, probabilmente adesso magari la situazione è cambiata, magari, beh, certo, non è che sono coglioni, stanno là già, però storicamente è risaputo che noi prendiamo comunque degli incentivi dalla comunità europea per far fronte a questi esodi che comunque non piacciono alla popolazione italiana, perché la nostra popolazione si sta contraddistinguendo per essere la popolazione più razzista del mondo, praticamente. E poi una volta non era così, si sono messi in testa che dice no, perché sennò fra qualche anno non saremo più italiani. Ma no, vabbè, ma io ho letto commenti di persone che conosco bene. Che vabbè, non lo devi raccontare un'altra volta, l'hai già raccontato. Cioè. Ma che ci dicono che le malattie arrivano perché ci stanno gli sbarchi. Vabbè, amica, ma c'è gente che dice che i terremoti arrivano perché i negri hanno spostato il peso dall'Africa all'Europa. Quindi ce la possiamo fare. Alla fine, comunque Richard Gere, in tutto questo. Comunque Richard Gere si è cazzato, ha detto avete rotto il cazzo. Ma c'è un cazzo. Perché poi c'era pure. E soprattutto voglio fare Roger Waters dalla situazione, perché non è che solo Roger va a fare l'eroe, infatti, in giro per mondo. Infatti, l'eroe va a fare la figurina. Insieme a un team di persone, tra cui c'era anche Chef Rubio. Grande Chef Rubio. Ha cercato di portare quanto più possibile viveri e acqua sulla Open Arms, che è in attesa. Quindi perdonami, questi non soltanto stanno a fare la crociera, mangiano pure della roba dello chef. Sì. Sì, lo chef ha cucinato per loro. Hai capito? Allora. E non credo soltanto una volta, però in quell'occasione sì, assolutamente ha cucinato. E che gli ha fatto? Io adesso voglio sapere chi gli ha fatto. Riso. Riso, sorriso, ma vi è da ridere. Vabbè, riso. Chef Rubio, però un po' di fantasia ce la potevi mettere, insomma. Vabbè, ovviamente i mezzi sono quelli che sono, quindi però non penso che sia un problema dei mezzi per andare a mangiare 50 persone. È stato un gesto simbolico. Bello, bello, sì, un sì, gesto bravo, molto bello. Quindi Richard Gere è salito sulla nave. Sì. Con le telecamere. Sì, con le telecamere. Per far vedere che questi ha fatto un video appello, ha raccontato la situazione a tutto il mondo. E ha fatto Zalia. Se va un po' schifo qua questa più o situazione. Meno, diciamo che è stato molto diplomatico, però. Ma la cosa fantastica è stata, vabbè, allora diciamo che ci sono state due reazioni. Una, quella del mondo, quella diciamo del bibbiano, così, artistico, eccetera, in cui praticamente tantissime persone si sono unite al coro di Richard Gere, comunque hanno chiesto. Ah, quindi stavano a cantavano nel coro. La posso fare stasera comunque. Hanno chiesto che la situazione venga sbloccata, che gli stati membri si mettano d'accordo, che l'Italia apri il porto di Lampedusa. E, E la reazione più bella, ma anche più triste, è stata quella degli italiani stessi, della maggior parte degli italiani stessi, che hanno commentato sotto i vari post di Repubblica, parlateci di Bibbiano, portali nella tua grande villa, bla bla bla, cosa che noi ci aspettavamo ovviamente. Vabbè, subito. Sappiamo, sì. Sì. Però veramente Richard Gere è stato un gran signore, ma anche nella conferenza stampa stessa, cioè lui, vedendo che comunque i giornalisti soffrivano per il caldo, si è alzato, ha offerto acqua a tutti, è una persona che comunque si è sempre contraddistinta per, diciamo così, aver fatto del suo essere personaggio pubblico, utilizzato questa sua fama per comunque appoggiare i più disagiati. Mi ricordo che lui fece un documentario o comunque una specie di test, cioè si finse un barbone per tantissimi, per alcuni giorni. Ma questo l'hanno fatto in diversi, sì. Sì, però sinceramente l'ho trovata una bella cosa. Spero che l'Italia non resti sola a combattere con questi pazzi razzisti che sono la popolazione scellerati, sì, che poi e i nostri governanti. In un video di quelli di sti raduni che sta a fa Salvini, c'era questo qua, sto tizio col cane in mano, c'era quello là. L'Umbria non è più roscia, l'Umbria adesso è nera, pure il cane è nero, cioè nel senso ormai c'è questo orgoglio. Ma poi c'è stato un, diciamo così, si è svegliato una ribellione silenziosa anche di molti personaggi pubblici italiani. Lo stesso Roy Paci, oggi leggevo che insieme a Daniele Silvestri e altri personaggi pubblici ha cominciato a prendere comunque la voce, ad alzare la voce, perché sembra che il suo collega sia stato, mentre contestava Salvini, sia stato preso la gola da uno degli scagnozzi di Salvini. Che ricordiamo che batte le mani a quelli, alla polizia che meno alla gente, che sì, comunque sono sempre italiani pure quelli, no? Comunque vabbè, io direi che a questo punto possiamo passare a un nuovo brano, sì, che questo ce lo spieghi, perché per esempio i Meganoidi, chi sono i Meganoidi? Allora i Meganoidi sono vabbè, è una band comunque, è roba di gioventù, okay, di gioventù. E Zeta Reticoli, tu lo sai che cos'è Zeta Reticoli? Sì, viene in questo momento, ma lo sapevo. Ok, praticamente c'è un pianeta della costellazione, anzi del sistema stellare di Zeta Reticoli, che viene considerato abitato, e si dice che gli alieni che vengono a visitare oramai il nostro pianeta da non si sa quanti tempi, da tempo vengono proprio da Zeta Reticoli. Ah, ok. Quindi c'è questa cosa. Vabbè, ma loro Meganoidi, cioè, facevano canzoni come supereroi contro la municipale. Sì, sì, no, ma chiaramente ne penso una presa per culo. Però Zeta Reticoli, facciamo insomma questa. È una bella canzone, sinceramente. Bella, bella. Io non l'ho mai sentita, quindi posso sentirla? Sì. Allora, vabbè, la facciamo partire e ci risentiamo, insomma, fra qualche istante, dopo il brano Zeta Reticoli. Io te devo dire la verità, questa canzone è veramente carina. È molto bella. Molto molto bella. Però non ho capito che cazzo c'entra Zeta Reticoli. Allora io la vorrei dedicare questa canzone, anche se non a me. No, a te sempre. Però la vorrei dedicare a una mia amica che si sposerà presto, fra circa un mese. Ma io va a fa. Perché rappresenta una dei, i Meganoidi rappresentano uno dei gruppi sempre presenti al 1° maggio, e noi eravamo sempre presenti al 1° maggio. Giusto. Quindi. Però ancora non ho capito che cosa c'entra Zeta Reticoli con questa canzone. Però insomma, magari qualcuno ce lo spiegherà, poi io attendo insomma vostre credo comunicazioni. Credo che c'è anche che fa anche con dei cartoni animati, con qualcosa di. Ma i Meganoidi è erano i nemici di Alan Benjo, però non mi ricordo che cartone animato era. Comunque, al di là di questo, insomma, io so, per esempio, Michela, e qui ti chiedo, perché sei tu oramai quella super esperta, quella super informata, perché leggi i giornali, che poi non sapete, Michela legge le notizie e si incazza. Cioè, sta lì, legge, ma che cazzo! È una cosa un po' strana, un po' inquietante. Pure adesso, prima, quando stava a vedere la diretta parlamentare, no? Sono quelli che parlavano, perché, signor Presidente, io, ma che cazzo! Cioè, come io quando guardo la Lazio, è la stessa cosa, insomma. Comunque, un panettiere, che di solito è riconosciuto, no, per fare i cornetti con la cioccolata, se li porti al forno di casa sua insieme alla gallina, ecco, pure lui è intervenuto. È intervenuto anche Antonio Banderas, che anche si cazzi, ha detto frano, però da internazionalità con tutti questi personaggi che intervengono. Sì, e Javier Bardem, che è l'attore, so minimamente chi sia, l'attore strafico che mi sembra che faceva dei film con Bombolo. Non lo so, però me lo ricordo, ma sinceramente non riesco a focalizzare quale film. Pensa però. Ai filmoni proprio. Cioè. sono entrambi spagnolis, com'è? E si appellano soprattutto alla Spagna, perché hanno capito che con l'Italia non ci sta molto verso, perché coordini lo sbarco, quindi dice: senti Spagna, fagli vedere tu come funziona questa lezione di civiltà a questi poveracci, insomma. E quindi entrambi hanno fatto un videomessaggio in tempi diversi, e si sono appellati alla Spagna affinché praticamente la Open Arms venga coordinata, le operazioni di sbarco vengano coordinate dalla Spagna, quindi magari anche se dovessero atterrare a Lampedusa, com'è che si dice qua? Sbarcare a Lampedusa. Approdare, comunque, che se ne occupi la Spagna, perché dell'Italia non ce ne può fidare. Nel frattempo, imbarbarirti con il tuo linguaggio come gli inglesi, che è landing qualsiasi cosa. Landing, ma non credo che landing sia anche assolutamente per sbarcare. Ah, certo, landing è approdo in generale, quindi per loro è l'atterraggio. Ah, beh, è vero, sì. King's Landing, c'hai ragione anche te. E quanto ci manca il trono di spade? Ma guarda, vabbè. Però quello che voglio dire è una cosa, adesso io non so quante persone siano intervenute in questa cosa, però Michela, questa è una domanda che ti faccio così in generale, ma tutti questi intellettuali che una volta si indignavano, no? che creavano movimenti d'opinione, che riuscivano comunque anche un po' a influenzare la società, to cazzo stanno? Cioè, ma Antonello Venditti, no? Ma che Antonello Venditti? No, io di Antonello Venditti una volta faceva il comunista. Ma bomba, cioè, non bomba. Ma che Antonello Venditti? Antonello Venditti sta con la Cuccarini a fare canzoni alla Rai. Capito? Ma che gli frega? Io l'ho detto. Sono rimasti sputi di vita, c'è ancora 400 mutui. Bennato, dove sta Bennato? Vasco Rossi, tutta assaggiata, tutti questi che ma erano, ma chi ne frega Vasco rottura, Rossi? Capito? Si indignavano pure scrittori, ma registi. Chi è che sei? Ma Vasco Rossi, guarda, l'unico Nanni Moretti, guarda, tu cazzo sta Nanni Moretti l'hanno proprio. Ma Nanni Moretti all'angolo. Che intervento faceva biastimato, stanno. L'hanno messo che all'angolo. Fine, che cosa è successo? Allora, diciamo che Nanni Moretti si è vergognato da solo per avere in qualche modo appoggiato Renzi. più forte, quindi ha detto forse è meglio che fu me ne vado, ciao amici, e quindi siamo anche giocato, perché comunque Nanni Moretti è diventato famoso, è diventato importante, è diventato qualcuno, e probabilmente questo non ha aiutato il movimento politico e sociale che ha cercato di portare avanti, e purtroppo lo ricordiamo tutti con grande nostalgia, con dei grandi capolavori, anche se ultimamente m'era saltata agli occhi una clip in cui lui comunque faceva vedere il suo ultimo lavoro e si vedeva un po' lui, sicuramente è un Nanni Moretti più sconsolato e più, come posso dire, più sfiduciato e sfiducioso. E la cosa che dobbiamo dire, che dicevo anche prima, è che moltissimi autori, moltissimi cantanti, moltissimi artisti si sono schierati, anche che provenivano dalla sinistra, ma anche persone notoriamente di sinistra, cioè abbiamo anche noi amici che comunque facevano parte di diverse sponde di sinistra o comunque di, diciamo così, centri sociali e cose varie, che hanno visto nel Movimento 5 Stelle immotivatamente, personalmente parlando, sì, sì, no, assolutamente immotivatamente, sì, la possibilità di rinascita, e quindi hanno appoggiato in qualche modo questo movimento. E poi quando hanno visto che il movimento... È un movimento del bacino, tipo, no? No, il Movimento 5 Stelle. E poi quando hanno visto che il Movimento 5 Stelle l'ha fregata alla grande portando Salvini e riportando comunque un periodo veramente buio come quello che sì, stiamo vivendo... Cioè, nel senso, sono rimasti stupiti da una cosa che era ovvia. No, non cioè, sono rimasti stupiti, non sono rimasti stupiti. Questo non è stupore. Il loro non è stupore. È stupidità. No. Il loro è un po' stupidità, mi dispiace dirlo perché non voglio dare dello stupido a nessuno. No, no, come no. Però questo non è stupore, questo è vergogna e senso di nausea. Sì, di nausea e anche di non voler in nessun modo come posso dire, a rendersi all'evidenza, quindi che praticamente è diventato diciamo così il mood del nostro stato di vivere, cioè non c'è possibilità di dire guarda che hai fatto una cazzata appoggiando il Movimento 5 Stelle. No, vabbè, non c'è più senso critico in generale, la gente prende, va su Facebook e dice, quindi non è che... Sì, va su Facebook e dice, però non dice è cose che va su già gli altri, e dice, oh regà, ho fatto una cazzata perché ho votato Renzi, ho votato Di Maio, i 5 Stelle sono dei deficienti patentati. Non c'è più questa... Non si dà dei deficienti ai 5 Stelle, però, così in maniera gratuita. Io andrei al prossimo brano. Sì. Poi dopo c'è un argomento che penso troverai tra il prossimo brano e il prossimo brano ancora. E poi io ti sostituisco l'ultimo brano, okay. Quello dei saluti, perché c'è un senso. Va bene. Basta che ci ricordiamo di metterlo in una prossima volta. Assolutamente, quel brano, te la lascio lì, così almeno rimane sempre lì. Nessuno la allora, il prossimo brano è un brano sempre oggi è l'omaggio a quando eravamo tutti di sinistra e andavamo ai concertoni e quando facevamo i pogatoni e quando facevamo un sacco di casino, e soprattutto è un omaggio alle culture tutte, perché è bello che le culture si incontrino anche con le loro differenze, quindi, e io questo lo sosterrò sempre, quindi Salvini magari moro, ma lo sosterrò sempre. Chi sono Salvini, sostieni? No, sosterrò questa cosa, che è importante che le culture riescano sempre a comunicare e a mischiarsi in qualche modo. Quindi io ascolterei con voi i mitici Scapè, compagni di una vita di gioventù, e con una bellissima Mesticaie. Vabbè, e a questa canzone io la dedico invece a un mio carissimo amico che non ci ascolta, non ci ascolterà mai, Cristian Spaccapaniccia, con il quale abbiamo esportato e insegnato a ballare lo ska a Vilnius. E poi noi vorremmo che sti brani così che ogni tanto proponiamo riportassero un po' di luce Ma dentro, sì, dentro la gente, cioè nel senso quel senso di appartenenza, di voler contribuire, di guardare in un avanti, no? Che sperando, sì, insomma, in una cosa migliore. Cosa che oramai non c'è, perché la gente oggi non spera neanche più in un futuro migliore. C'è solo l'odio verso l'altri. Cioè, che è grazie a gente come Salvini che poi alla fine si è venuto a creare questa situazione qua. Io non so poi tu come la pensi, però... Io la penso esattamente come te e guarda, vedo... guarda come agito le braccia. Eh, guarda, sì, infatti, mo te do una pizza e te sta zitto. Comunque, come dice l'Abbia, abbiamo perso tutti e stiamo perdendo tutti. Io dal periodo di Scabè, di Mesticaie e di tutto quello che è quel periodo, è vero che sono passati 20 anni, è vero che ero giovane, è vero che ero felice e che adesso sono felice ovviamente anche adesso, però ero comunque, era comunque un'altra vita e quindi mi sembrava, ma mi sembra che tantissimo sia cambiato, mi sembra che molto molto molto sia cambiato, che non ci sia più la libertà che c'era una volta di riunirsi per ragionare insieme. No, ma poi se vai a vedere paradossalmente invece, cioè la libertà rispetto a prima di esprimere un concetto è amplificata di 100 volte rispetto a prima. È possibile che sia stato quello il problema. Esatto, cioè nel senso, però poi in realtà, cioè che hanno fatto i social network, hanno fatto in modo che noi venissimo influenzati su determinate cose, ci sentissimo, come posso dire, parte integrante di un sistema nel quale potevamo esprimere considerazioni che si perdono e si disperdono senza nessunissimo valore e che poi alla fine non diventano nient'altro che un codazzo rispetto alle parole degli altri, no? Che poi alla fine è quello. Però poi magari in piazza o ai bar o nelle sedi dei partiti o nei circoli giovanili non si parla più, cioè non c'è più questa aderenza, diciamo a partire anche da quelli che avrebbero dovuto farlo, no? Nel senso, sì, diciamo che io ho visto, guarda sempre come muovo, sì, le infatti se mi muovo do una stracagnata e tappendo a finestra perché mi piace muovere le braccia, ho visto la lobomotizzare. Hai visto cose? Lobomotizzare la bombottura. La lobo dopo. Vabbè, la lobby. La lobby, no, dei poteri. Ho visto comunque spingersi. La lobotomizzazione. Spingersi l'entusiasmo anche nel, diciamo così, in un ambiente come quello che ho frequentato io, che è quello dell'università. Io ho passato tantissimo tempo nella facoltà di filosofia, non perché ci avessi qualche altarino nella facoltà di filosofia, ma semplicemente perché la facoltà di filosofia e la mia facoltà erano nella stessa facoltà. Ma io non sto parlando? Stai parlando benissimo. Ah, ok, perfetto. Cioè, cosa pensi che non parli? Perché vedo che c'è questo, uno questo giallo. Non c'entra niente. Ah, okay, questo è qua, siamo io e te. Ok, io e te, due io. Esatto. E ho visto veramente l'entusiasmo passare. Così, passa. Oh, solo l'entusiasmo. Sì, ma anche l'interesse. Cioè, magari tantissime diciamo così, tantissimi seminari, tantissime cose che venivano proposte, mano a mano che cresceva diciamo così la mia maturità universitaria e che arrivavano comunque le matricole più giovani, vedevo questa perdita di entusiasmo nei confronti di quello che era. Ok, mi devo laureare perché, ma Lobby che dice? Vita, non parlatemi della vita. Mi devo laureare, tutto il resto non mi interessa. Peccato, perché ti perdi veramente un bel po' di vita, insomma, un bel po' di cose intorno. E quindi questa perdita di interesse è comunque una perdita molto sottile, che è andata mano a mano crescendo. Vabbè, e che comunque è funzionale, perché comunque è stata, cioè tutto questo è stata utile comunque, alla fine è stato funzionale per arrivare a un sistema dove la gente non ha più un senso critico, non ha più una posizione, non ha più neanche una cognizione. Se ne parlava io adesso, magari, cioè, tu guarda il stesso Movimento 5 Stelle, no? Fino a che non hanno fatto le elezioni, schifo, che il governo eletto dal popolo, tutte queste cazzate qua, e poi alla fine la prima cosa che hanno fatto, la prima cosa che hanno fatto è eleggere un presidente del consiglio che con le elezioni non c'entrava un cazzo. Cioè, è proprio, cioè, nel senso, tanto oramai anche il senso critico, al massimo la gente non te vota più, non è che partecipa alla discussione. Ah, per carità, poi vabbè, loro non lascia perdere, loro c'hanno Rousseau e se manipolano i voti come gli pare a loro, perché, cioè, ma io veramente avevo votato, no, veramente, guarda, questo è il risultato, cioè, stacce, cioè devi sta, vabbè, ma comunque che forte mi ammutolisci, perché è così, io sto esprimendo un concetto, devo dire una cosa, ma mi sì, allora lo fai pure tu, quindi stacce pure tu, fa rima, c'è stacce, stacce. E comunque che vi volevo dire, ed è così importante, no, niente di così eclatante. Ah no, dicevo che, ecco che cosa volevo dire, che poi questa cosa la vorrei approfondire magari con delle persone che conoscono meglio il tema, ma io mi vanto di aver fatto un esame con un grandissimo Tullio De Mauro, non è che ho preso 30 all'esame, ve lo dico subito, quindi sono andata via con un mesto 23-24, non mi ricordo, ma proprio... Come dice, porta a casa... Però sono molto felice di aver potuto conoscere questo personaggio, che comunque già all'epoca, quindi vi parlo di 20 anni fa, parlava di questa forma di analfabetismo presente soprattutto sulle piattaforme. Probabilmente Facebook era appena nato, stava nascendo, ma lui lanciava già l'allarme per questa, diciamo così, mancanza di conoscenza generale, diciamo così, di conoscenza e di curiosità della conoscenza generale, e poi proprio l'analfabetismo nel vero senso della parola. Ma questo è un tema che vorrei approfondire meglio. Probabilmente sfrutterò qualcuno dei miei contatti, dei miei antichi contatti, per farci una bella puntata. Vedremo un po'. E tra l'altro, sì, io c'ho un attimo perché la citazione che ha fatto Lobby adesso mi dice qualcosa, non riesco ad associarla, quindi stavo cercando su Google, però vabbè, andiamo con un brano, così poi salutiamo. Salutiamo? Poi dopo salutiamo. Sì. Cioè, abbiamo un altro argomento, però magari ce lo teniamo per la prossima volta. Ah no, vabbè, possiamo anche dirlo nella parte finale, nell'ultima sessione. Ok, allora andiamo con i Luminers, con una canzone con un titolo stranissimo, ovvero Oh Hey! Così si chiama. Vabbè, se si chiama così, e poi è bella sta canzone. Sì. Eh? È bella, cioè parte un po'... soft, no? È molto popolare. Però poi a un certo punto cioè, è molto nerd, cioè, capito? È da mucchio, da folla. Sì. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. Now I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. Ah, vedi, questa mi finisce così senso che... E comunque io ho trovato la quadra. Ma in realtà non bisognava trovarlo, bisognava saperlo. Il fatto che noi non lo sappiamo ci rende ignoranti. Guida galattica per gli autostoppisti. Guida salata. Salata. Galattica per gli autostoppisti, che mi fece leggere il caro professor Mariani, che una volta abbiamo intervistato con grande onore. Tutte cose andate perdute come lacrime nella pioggia. Sì, tra l'altro nello stesso corso c'era anche un bellissimo mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut e altri libri, non mi ricordo, però mi ricordo questi due bellissimi libri. Comunque, per diciamo riempire i vostri cuori di gioia e di speranza, così come noi cerchiamo di fare sempre in questa trasmissione, c'è anche da considerare che non è che su tutte le cose brutte succedono a noi. Questa è la cosa che ci rincuora. No, non ci rincuora assolutamente. Dall'altra parte, poi dopo, alla fine, succede che? Succede che in America praticamente 680 immigrati vengono arrestati. Clandestini, però. 600 immigrati clandestini, però con figli che vivono, tutti con figli che vivono in America, nati e cresciuti in America, quindi americani per... diciamo così, per legge, per spirito divino, vengono arrestati in un raid. Scusate, ma il link va un po' a cavolo come vuole lui. Vengono arrestati il 7 agosto in un raid dall'Immigration and Custom Enforcement. Cioè, questi hanno organizzato un'operazione dove nello stesso giorno hanno arrestato 680 persone. Quindi pensate anche il costo di un'operazione del genere. Il bilancio è di 680 persone arrestate, per lo più ispanici, in quella che risulta essere la maggiore operazione in almeno 10 anni. Fra gli impianti della lavorazione del pollame visitati dagli agenti c'è quello di Coach for Martin. I lavoratori fermati sono stati caricati su 3 autobus e trasportati in un hangar per i controlli. La cosa pazzesca è che tantissimi... E qui per far vedere la propaganda di Trump, e lui è contento di aver fatto ciò. Bravo. Io non applaudisco. Bravo, bravo, proprio, guarda che soddisfazione. Quando torni a casa, no, dici, oh, proprio, oggi ho fatto proprio una bella cosa. Mamma mia, peggio di Salvini proprio. Io, ma l'aria è questa, ragazzi. Non ve lo dico, regà, quando vedo Salvini o quando vedo Trump, quello che mi auguro. È che è indispensabile che la gente viva un periodo di oscurità e di terrore. Ho perché capito, sennò non se lo ricorda, capito? Ma io lo so che vuol dire, quindi posso essere esonerata. No, non puoi essere esonerata, okay. Purtroppo tu paghi per tutti quanti. Ok. E comunque dicevo che la maggior parte di queste persone, genitori comunque di bambini, che si sono ritrovati, cioè ci sono delle immagini su internet in cui praticamente vediamo questi bambini ignari di tutto, che si rivolgono comunque alle autorità dopo aver capito che i genitori non li andranno a prendere a scuola. Io adesso non so bene dal 7 agosto al 13 agosto quello che è successo, perché è una notizia... No, stanno ancora lì davanti a scuola. No, nel senso è una notizia, beh, sicuramente si saranno occupati le autorità di loro, i loro parenti, ammesso che non siano stati arrestati tutti in blocco. È chiaro che gli unici che hanno diritto di restare in America, è assurdo, ma sono proprio questi ragazzini, che però si ritroveranno senza genitori da un momento all'altro. L'America è un posto strano, ma noi in Italia ci stiamo arrivando, ci stiamo adeguando a passo veloce, passo corese anche. Sì. Va bene, invece, per così per alleggerire un po'. La famosa morte a Passo Corese. Esatto, no, morire. Chissà cosa il dottor Campo penserà di tutto questo. Beh, sarebbe interessante sapere cosa il dottor Campo. Magari a settembre glielo chiediamo. Sì. Glielo chiediamo e vediamo che cosa ne pensa. Magari, comunque... magari tra Bibiano e questa notizia, il dottor Campo vorrebbe in qualche modo lasciarci un suo. Comunque, lo diciamo che siamo stati. Intervento. In 7 giorni siamo stati 3 volte dal veterinario, così. Sì. Racconta un po' di cazzo. Vabbè, facciamo Casa Raimondo, perché praticamente la prima volta la gattina piccola è rimasta incastrata sul termosifone per la coda, e quindi non potete capire che dolore ha provato. Michele è andato lì per salvarla e gli ha squarciato la mano e poi è schizzata via sbattendo l'anca, quindi vabbè, questa ha zoppicato, l'hanno portata dal veterinario, diceva, ah, può essere che magari sente, diceva, ma avete fatto bene, ora vi faccio una puntura, pra. Questa dopo, puntura ha generato... Vabbè, questo, dopo 2 o 3 giorni c'era Gozzi che andava in giro per casa, quindi quella grande, sbrattava rotta di collo, e ho detto, guarda Michele, che alla quarta sbrattata c'è qualcosa che non va. E allora anche lei via la porti al coso, perché c'è l'umido, non gli date l'umido d'estate e gli dategli proprio il mangiare quello super gastrointestinal, perché che è un po' più delicatina, diciamo così. A quel punto oggi, già da 2 o 3 giorni, ci siamo accorti che la piccola aveva una specie di ferita sul collo di dietro, che però abbiamo disinfettata e il giorno stesso, insomma, alla fine già si vedeva quasi più. Però poi praticamente oggi era, cioè, rosso, grossa proprio, c'era, cioè, proprio il sangue. Dico, porca puttana, ma che cazzo è successo? Insomma, alla fine, evidentemente, la punturina che gli avevano fatto l'altra volta gli ha fatto tipo infezione, e lei gli prudeva e si grattava e si è fatto sta brutta ferita. E si è andati al veterinario che gli ha fatto l'antibiotico, dice, vabbè, mo dovrebbe. Quindi, insomma, mia moglie l'altro giorno mi dice, dai, prendiamo anche un cane. La moglie, sai che ti rispondo? Ma no, ma sono cose che succedono anche agli umani. Da bella gesto, sì, ma gli umani gli dici voi, via della pasticca e sarebbe stato sì. Quanto è bello, dite a lui quanto è bello avere l'amore di un cane. Quanto è bello Marcondino di Rondello. Io invece vorrei salutare tutti e ci vediamo subito dopo l'estate. Passate questo agosto tranquillo, insomma, noi torniamo a settembre, giusto? Sì, allora aspetta, prima di salutare tutti, dato che abbiamo parlato dei nostri gatti, che abbiamo detto che sono stati male, eccetera, eccetera, io vi ricordo sempre che, allora, qualora decidete di adottare un cane, un gatto, non comprate, ragazzi, ci abbiamo... i rifugi e il canile di Roma, vabbè, il canile di Roma che sta in una situazione particolare, però abbiamo i rifugi di tutta Italia pieni zeppi di cani, e così come i gattili pieni zeppi di cani, di gatti, scusate, e gattini, tantissimi cuccioli. Quindi sterilizzate, non comprate, e amate tanto e adottate più che potete, e poi affacciatevi se potete nella pagina di Rifugio Codi Felici, che è il rifugio che io appoggerò sempre. A questo proposito, anche se la canzone non c'entra proprio niente, però ci tengo a fare un saluto a un caro amico che mi ha lasciato in questi giorni, che è il nostro Niki, che è il cagnolone che mi era stato affidato il rifugio, e che comunque è stato il mio primo addio tra quelli un po' più importanti, diciamo. Quindi io mi avrei la domanda a me dare una risposta, se risuccede un'altra volta. Vabbè, ma lui è il cagnolone di tutti, e quindi lo saluto con tutto il cuore, e spero che sarà sicuramente nel cuore di tutti qui e nel cuore di tutti dovunque sarà adesso. Va bene, grazie per lasciarci con l'allegria, che insomma è una cosa importante. Diciamo, ci rivediamo a settembre, magari con altri temi. Io ho un'idea, poi gliela propongo al direttore qua, che è lei che comanda la trasmissione, e poi insomma vediamo, insomma, speriamo che le situazioni siano migliorate. Però vi lascio con una canzone, perché in realtà noi avevamo finito con una canzone di Vinicio Capossela. Poi, in realtà, parlando di quella cosa degli artisti, mi è venuto in mente un brano che è un brano che io ho amato tantissimo. Sì, quando... però io non sarei. Cioè... Poi dopo tu dici che so io che ti faccio dimenticare cose. Vai. No, nel senso, volevo fare una postilla, ma non mi uccide per Vai, questo. Vabbè, però, cioè... Dicevo che questo non è più l'Antonello Venditti. È chiaro, infatti stavo dicendo questo io. Cioè, se tu mi fai finire e poi dopo salutiamo, è questa cosa. Questo è un brano che io ho amato tantissimo quando avevo 16 anni, no? Perché quando eri nel coso. Però poi alla fine è una canzone molto malinconica, perché allora tu la vedevi quasi come guardavi il secondo, la persona alla quale era dedicata la canzone, e dicevi, ah, tu sei un traditore, no? Tu diventerai un traditore, io non sarò come te, no? Invece in realtà alla fine questa canzone non fa nient'altro che descrivere quello che probabilmente è successo a tanti di noi, o probabilmente è successo anche a tanti di quegli artisti di cui parlavamo prima, quelli che una volta facevano i movimenti d'opinione, che si indignavano, che erano di sinistra, che facevano le lotte sociali, che cercavano di combattere per i diritti della gente, roba del genere, che oggi sono spariti tutti, no? E mi è venuto in mente proprio quando tu hai detto che Nanni Moretti alla fine ha spalleggiato pure Renzi, no? Cioè, nel senso, poi se ne è vergognato, no? E quindi alla fine è quel compagno di scuola che diventa, cioè che non, che finisce in banca, no? Cioè nel senso che non se la ricorda più neanche il fumo delle barricate, no? Le lotte o roba del genere. E questa è un po' malinconica sta cosa, però secondo me ci sta come canzone, che secondo me è una delle tre canzoni belle dei Venditti, perché tutto il resto è tutto ruffianismo incredibile di un artista che veramente alla fine era un pianista di piano bar, come diceva De Gregori. Insomma, vuoi dire qualcosa? No. Quindi, salutiamo i nostri amici, salutali, che è la tua il mio pensiero finale. Scusa, parli solo tu qui. Parlo solo io. Ammazza, che coraggio. Adesso metto il cronometro la prossima volta. No, vabbè, comunque io vi ringrazio, perché anche se pochi, siete sempre i nostri fedeli compagni, e quindi continuiamo a combattere tutti insieme, e fino a che non arriva qualcuno e ci porta direttamente al commissariato, come dei vecchi tempi di Radio Radicale, no? Quando entravano i carabinieri. Sì. E niente, io aspetto settembre con nuove proposte. Tra l'altro questi giorni lavorerò anche a Mono, perché ho deciso di riprenderlo in mano. Ho già chiesto a Burigana, l'ho costretto. La trasmissione, vuole riprendere in mano la trasmissione. Sì, sì, devo prendere in mano la trasmissione. Non è che ho già costretto Burigana a fare stravolgimenti sulle sigle, assets, sì, eccetera, una sola eccetera. La sigla era bellissima quella. No, Mono. Un po' inquietante. Mono. Quindi, e poi la sentiamo in privato quella là, va bene? Mono. E io aspetto a settembre tantissimi dovunque, in tutte le trasmissioni di Runtime. In tutte le vostre radio. Andate all'università, andate a manifestare, uscite in piazza, fate casino. Nei migliori negozi di tabaccheria. Uniamoci nella lotta. E quindi niente, vi lascio quindi con questo brano che mi è venuto in mente, che ricordatelo, che è un brano che io ho amato tanto, per quanto in realtà abbia insomma dentro di sé molte complicazioni, ed è Compagno di scuola di Antonello Venditti. Davanti alla scuola, tanta gente, otto e venti, prima campana, e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe, di occhiali, di corse sulle scale, le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole. Da 40 anni di onesta professione. Ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara. E la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero o un fallito, un servo di partito. Un servo di partito. Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene, perché ditemi chi non si è mai innamorato di quella del primo banco,